della vita son tante le trame, si soffre la noia, si soffre la fame, poi soffriamo anche d'amore, per chi ha fame è il male minore. Sulla strada ho visto una donna, occhi di cielo nel fiore degli anni, tacchi a spillo e minigonna, frutto spietato degli inganni. I soldi per un po' di calore, solo così può essere il nesso, solo per fame che c'entra l'amore, non do il cuore, solo il mio sesso. Col mio corpo guadagno la vita, aspetto sempre che sia finita, avrei voluto amare col cuore, l'ho fatto una volta, è rimasto il dolore. Questa strada è maestra di vita, solo quando riuscirete a vedere che è la vostra. Non è tutta in salita, si può scendere senza cadere. Della vita ricordate le trame, si soffre la noia, si soffre la fame. Se soffrite pene d'amore, penso non sia il male peggiore.